Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, avrete letto sui giornali e visto sui telegiornali che qualche giorno fa è stato arrestato a Calatafimi un super latitante di mafia, Domenico Raccuglia. Nella squadra che lo ha arrestato c'è anche l'autore del libro che ora vi presento, un autore di cui non si può fare il nome, infatti il libro viene pubblicato sotto il titolo Catturandi e l'autore è IMD. Non si può fare il nome appunto per ragioni di sicurezza. Il sottotitolo è Da Provenzano allo Piccolo, come si stana un pericoloso latitante, pubblicato da Flaccovio, costa 12 euro e sono 192 pagine. Questo libro è una testimonianza particolarmente interessante perché permette innanzitutto di capire molti termini e molti aspetti delle pratiche investigative. Nel libro ci sono anche i modelli burocratici, anche proprio per entrare nella vita quotidiana di chi fa questo lavoro. Ma soprattutto interessa il libro per la tensione, per la passione che trasmette, con le quali queste squadre si impegnano ad assicurare alla giustizia, come si sarebbe detto una volta, dei latitanti particolarmente pericolosi. E conosciamo così le tecniche investigative, le tecnologie, anche possiamo dire i trucchi, le furbizie di un lavoro che spesso si trascina per anni, se non per decenni, come alcuni casi ci ricordano, quello del famoso Reina, quello di Provenzano, tutti i casi che vengono illustrati e ripresi anche in questo libro. Tra l'altro, IMD aveva partecipato lui stesso alla cattura anche di un'altra importante spezzone di mafiosi, e cioè quelli dei Lo Piccolo, di Salvatore Sandro Lo Piccolo. E nel libro troviamo anche molti tratti psicologici, non soltanto di chi fa questo lavoro, ma anche dei catturandi, come appunto si chiamano in linguaggio burocratico, cioè dei latitanti da portare in carcere, delle ragioni che le spingono a fare una vita apparentemente incomprensibile nella sua crudeltà e nella sua disumanità. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno al sovrintendente IMD. Buongiorno. Nel suo libro, sovrintendente, lei a un certo punto scrive all'inizio che non esistono persone imprendibili, non esistono coperture impossibili da superare, non c'è mancanza di volontà quando si tratta di scovare un latitante, e parla anzi di stereotipi e retaggi giornalistici. Ecco, che cosa vuole dire? Che appunto tutte le polemiche che si fanno sulla presunta imprendibilità di molti latitanti sono strumentali? Beh, in realtà abbiamo dimostrato con i fatti che anche i latitanti che si pensavano imprendibili e che erano appunto fuggiaschi da tanti anni, alla fine sono caduti. E senza l'aiuto alcuno, cioè nel senso senza l'intervento di altri collaboratori di giustizia, ma basandoci esclusivamente su indagini proprio tradizionali. Mi riferisco ad esempio al caso di Bernardo Provenzano o ad esempio all'ultimo caso di Domenico Raccuglia. Quindi mi riferivo al fatto che molte volte si sente dire: ah vabbè, tanto non lo vogliono prendere, tanto non lo vogliono catturare perché si deve rimanere tale, deve rimanere latitante, o quando addirittura l'abbiamo preso, allora sì, allora lo volevano prendere, lo hanno catturato. In realtà è tutta una questione di risorse e di tempistica, nel senso che i latitanti mafiosi hanno tante risorse a disposizione per poter fuggire e rimanere tali, mentre la polizia di Stato, le forze di polizia devono fare i conti con quello che hanno, quindi molte volte è proprio una questione di risorse messe in campo e di difficoltà oggettive nel trovare il fuggiasco. Nella postfazione al suo libro il professor Salvatore Costantino, che è un sociologo dell'Università di Palermo, parla anche lui del rapporto con la stampa e con i mezzi di comunicazione, sottolineando come spesso questi tendano ad enfatizzare certi aspetti, diciamolo pure con molte virgolette, romantici della mafia, e questo naturalmente crea un clima psicologico difficile. Sì, effettivamente è così. Ci sono, diciamo, molteplici effetti. Innanzitutto sulla collettività, sulla società, perché si dà come l'impressione che questi personaggi abbiano un qualcosa di positivo, che siano, diciamo, al di sopra della legge, al di sopra del rispetto del vivere sociale, del vivere comune. Li si, diciamo, dipinge come antieroi, però colorandoli, diciamo, con caratteristiche da supereroe. In realtà i mafiosi sono abbiamo avuto, diciamo, l'esperienza ad esempio con il Lo Piccolo, gente come tutte le altre, anzi noi pensavamo che, visto che si trattava di Sandro, che era molto giovane, si potessero utilizzare tecnologie all'avanguardia, internet e così via. In realtà invece sono persone ignoranti, nel senso che non sono persone preparate ed educate al vivere sociale, per cui molte volte c'è molta gratitudine, molta cattiveria, molta, tra virgolette, stupidità. Loro vivono nel loro mondo fatto di prevaricazione, è fatto praticamente, crescono con l'idea di diventare dei boss e di poter decidere della vita e della morte di altre persone. Veramente sono soggetti bassi, ecco, non c'è nulla di positivo nelle loro figure. Fermiamoci su questo aspetto psicologico. Lei a un certo punto affronta un problema che in tanti ci poniamo, a vedere anche le immagini delle condizioni in cui vivono, dei tuguri nei quali vengono catturati. Ma chi glielo fa fare a fare una vita di questo genere? Io ritengo che sia proprio un problema di socializzazione. Cioè, io tutti i boss che ho conosciuto, soprattutto quelli di un certo calibro, fanno parte, sono nati all'interno di una famiglia mafiosa. Sono figli di mafiosi, nipoti di mafiosi, hanno sposato donne che appartengono ad famiglie mafiose. Quindi praticamente un gruppo relazionale particolare, una società dentro la società, uno Stato dentro lo Stato, con delle proprie regole. E quindi il fatto di poter gestire un'organizzazione tale è, diciamo, sufficiente a far sì che la propria condizione, che magari la maggior parte di noi ritiene assolutamente ingiustificabile, nel senso che se io ho, per esempio come Raccuglia, 140.000 euro in tasca, in contanti, mi andrei a prendere uno dei migliori alberghi, starei, diciamo, comodo, e non mi andrei a nascondere in un terzo piano di una palazzina veramente striminzita in una cittadina come Calatafimi. Insomma, farei una vita, ecco, diversa. Provenzano viveva veramente in un tugurio e intanto anche lui aveva a disposizione ingenti quantità di denaro. Ma non è questo quello che conta per loro. Quello che conta per loro è gestire l'organizzazione, avere il potere, avere la possibilità di scegliere, la possibilità praticamente di terrorizzare gli altri e attraverso il terrore praticamente poter comandare su un'organizzazione vastissima. E infatti lei ha parlato di donne, un capitolo del suo libro si intitola proprio Le donne di mafia e sottolinea il ruolo che queste donne svolgono. In questo processo di socializzazione le donne svolgono un ruolo fondamentale, sono quelle che praticamente danno l'imprinting ai piccoli, sono quelle che trasferiscono quelli che sono i valori di Cosa Nostra all'interno della famiglia. Ricordiamoci il decalogo del buon mafioso: rispettare le donne degli altri, non tradire la donna. Cosa significa? Persino il mafioso ha delle regole che pongono al centro dell'attenzione la donna, proprio perché è quella che deve crescere i figli, è quella che deve badare alla famiglia quando loro sono ricercati e sono latitanti o sono in galera. Sono quelli che devono comunicare al resto dell'organizzazione, perché la maggior parte dei messaggi, ad esempio di un boss latitante o di un boss recluso, avviene attraverso la famiglia, attraverso le donne. Quando si abbracciano, ad esempio, l'uomo comunica all'orecchio della donna un messaggio, qualcosa da comunicare, e ne abbiamo tantissime esperienze. La moglie di Provenzano, la moglie di Lo Piccolo, la moglie di Raccuglia è stata per tanti anni latitante col marito nel periodo estivo, riusciva a sfuggire al controllo delle forze dell'ordine e a stare col marito per un certo periodo per poi praticamente ritornare. Cioè, credo che abbia fatto pure dei figli durante il periodo della latitanza, per cui la donna riveste un ruolo importantissimo. Bene, grazie al sovrintendente IMD, autore di Catturandi. Buona grazie domenica. A voi, grazie. Un libro interessante per cogliere la presa devastante della mafia sulla società, ma anche sulle vite individuali, è Io che da morto vi parlo, passioni, delusioni, suicidio, del professor Adolfo Parmaliana. L'autore è Alfio Caruso, esperto di questo genere di materie, e il libro è pubblicato da Longanesi, 222 pagine, 15 euro. Il professor Parmaliana era un docente noto anche a livello internazionale dell'Università di Messina, che pochi mesi fa, poco più di un anno fa, il 2 ottobre del 2008, si buttò da un viadotto dell'autostrada perché stroncato dagli attacchi ai quali era sottoposto per l'impegno civile che aveva dimostrato negli anni precedenti a favore della sua comunità, un piccolo borgo, Torre Vigliatore, vicino a Barcellona Pozza di Gotto, in un'area che fino a qualche decennio fa era rimasta immune dalla mafia. Parmaliana, si impegna, si fa eleggere anche al Consiglio Comunale come nelle liste del suo partito, il Partito Comunista, e da lì denuncia le malefatte delle cosche e gli interessi con i potentati del luogo. Ma queste denunce restano inascoltate, salvo lo scioglimento del Consiglio Comunale del suo paese. Anche il suo partito è tutt'altro che saldo al suo fianco. Anzi, quando Parmaliana con una lettera molto accorata spiegherà le ragioni della sua mancata iscrizione al Partito Democratico, scriverà che la Federazione di Messina del Partito Comunista era stata storicamente dominata, leggo dalle sue parole, da un gruppo che ha fatto della gerontocrazia, del familismo e dell'appartenenza al gruppo le sue uniche direttrici di azioni. Parlava Parmaliana di un gruppo buono per tutte le stagioni che opera nella logica di governare l'esistente. L'ultima lettera, che dà appunto il titolo al libro, è quella nella quale Parmaliana denuncia gli attacchi subiti e che appunto lo hanno indotto a questo gesto estremo. Ma dal libro vi faccio ascoltare alcune righe tratte da un altro documento, una sorta di breviario per i suoi studenti dell'università che Parmaliana scrive nel 2003, subito dopo il verdetto del Consiglio Superiore della Magistratura che aveva escluso qualunque leggerezza, per dire così, nella gestione della giustizia da parte dei magistrati locali, leggerezze che erano state denunciate da Parmaliana. Non delegare, impegnarsi a essere soggetti attivi, rifiutare le protezioni, rifiutare le raccomandazioni, non affidarsi agli altri. Ognuno è artefice del proprio futuro. Un impegno permanente per la vita, lottare, lottare, lottare. Impegnarsi per i valori universali, libertà, democrazia, uguaglianza, autonomia, pari opportunità. Nutrire il proprio io, ispirarsi a valori universali, conformare le proprie azioni a principi universali, intestarsi grandi progetti. Nutrire la propria mente, il proprio corpo e la propria anima. Essere curiosi, attenti, vigili, creativi. Libri sul comodino. Costituzione, Bibbia, barzellette. I libri fanno labbra. Pensare non costa nulla. Pensare in maniera efficace è un'azione complessa. Progettare può anche essere agevole se si è dotati di creatività. Progettare in maniera efficace e funzionale è un'attività alquanto complessa. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Qualche giorno fa, il 26 di novembre, è stato ricordato il centenario della nascita di Eugène Ionesco, il drammaturgo francese di origine rumena, autore di alcuni dei titoli più famosi del Novecento. In questo periodo di lui sono in scena a Milano al Teatro Arsenale La Cantatrice Calva, uno dei titoli più famosi, nella traduzione con la regia di Marina Spelafico, e poi al Piccolo Teatro andrà in scena dal 16 al 20 dicembre Le Sedie, con la regia e le scene di Pietro Carrillo. A Ionesco non ha giovato la fama di essere uno scrittore considerato di destra e infatti in questa occasione noto che sono usciti pochi titoli. Ve ne segnalo uno dei pochi che ho trovato, anzi forse l'unico, Odonto Tirannos, Ionesco e il fantasma del rinoceronte, pubblicato da Filo, e l'autore è Giovanni Rotiroti, che è uno psicanalista di Firenze. 180 pagine e 15,50 euro. Il titolo del libro si rifà a uno dei racconti più famosi di Ionesco, Rinoceronte appunto, che diventa, nelle parole di Rotiroti, un fantasma individuale di portata collettiva, quasi di massa. Il rinoceronte, scrive l'autore, è il fantasma del totalitarismo politico ed ideologico, trasformatosi progressivamente in mito, storia, racconto, opera teatrale, che Eugène Ionesco ha portato sempre con sé nelle sue conferenze in tutto il mondo. E Rotiroti parte proprio dalla rimozione sostanziale che di Ionesco e di molti altri autori romeni è stata fatta. Questi autori sono stati bollati come fascisti perché coinvolti nel movimento Criterion. Di questo giro, tra l'altro, facevano parte autori come Mircea Eliade e Emil Choran. Tutta colpa per questa rimozione del caposcuola Nae Ionescu, che nella sua damnatio ha coinvolto anche Ionescu, scrive infatti Rotiroti, che l'inquisitoria si è spostata su Ionescu, troppo ludico, contraddittorio, egocentrico, assurdo, poco serio e a tratti lamentoso. Si proietta su Ionescu, continua l'autore, l'ambiguità sulla sua missione diplomatica a Vichy, si pone sulla sua opera il timbro dell'assurdo come marchio di qualità e si spera così di fare un bel lavoro in nome dell'etica del bene e dell'utile a favore di tutta la comunità occidentale. Insomma, un bel esempio di correttezza politica che ha bollato uno dei grandi autori del Novecento. E il libro segue appunto questo percorso per cogliere lo sviluppo del pensiero di Ionescu e i tratti più caratteristici della sua opera. Un altro mostro sacro del Novecento di cui vi parlo adesso è Virginia Woolf, la grande scrittrice inglese vissuta tra il 1882 e il 1941, che ha schiere di fans in tutto il mondo. La ritroviamo come comprimaria di due libri insoliti, uno di una scrittrice catalana, Alicia Jiménez Bartlett, Una stanza tutta per gli altri, ripubblicato da Sellerio, 338 pagine, 14 euro, tradotto da Maria Nicola. Il titolo parafrasa il famoso titolo di un saggio della Woolf, Una stanza tutta per sé, e il romanzo prende spunto da un diario fittizio di una delle due domestiche della Woolf, che racconta appunto un lungo tratto della vita della scrittrice. Il diario è inventato, ma il libro contiene lunghi brani che sono tratti dai diari autentici di Virginia Woolf, quindi abbiamo due piani narrativi: la scrittrice che racconta la Woolf e la domestica che racconta se stessa e la Woolf. E il libro parte dal funerale della scrittrice che si era suicidata, scrittrice nei confronti della quale la domestica non cela in quell'occasione il suo risentimento, la definisce moglie pazza ed egoista e le rimprovera di essere stata più sensibile alle sue porcellane che non ai ragazzi che cadevano in guerra. Dal libro viene confermata la condizione assolutamente miserevole della servitù inglese. La Woolf non faceva eccezione, si poneva dei problemi ideologici sul fatto di tenere delle domestiche in casa, ma poi le trattava malissimo come tutte le altre domestiche che in Inghilterra. A un certo punto rimprovera una delle due che le aveva chiesto un piccolo aumento di stipendio, dicendo che turbava con queste richieste, con i suoi toni, il suo equilibrio, e la disturbava. Ma il libro non è una recriminazione sindacale contro una padrona famosa, ma la ricostruzione, anche con tratti di acidità, della vita che conduceva la Woolf e dell'attività del famoso circolo di Bloomsbury. Nelly, la domestica, serve, spazza, lava, cucina, ma osserva e scrive, alimentando non tanto un odio di classe quanto un risentimento profondo verso atteggiamenti che reputa assolutamente gratuiti e ingiustificati, indice di un orgoglio e di una presunzione smisurati, come descrivono queste righe. Di sotto ci sono il signor Keynes e sua moglie. È una ballerina russa, una donna strana. Le ragazze ce lo dicevano sempre, a me e a Lotti. Voi vi siete abituati alla gente strana. E forse è vero. Mi domando se siano più felici della gente normale. So che soffrono, con tutti quegli amori intricati. A volte li ho sentiti lamentarsi. La signora dice che soffrono perché devono scrivere e dipingere bene, per quello che dirà la gente quando leggerà o vedrà le loro opere. Ma io non credo che soffrano più di un operaio che deve dare da mangiare ai suoi figli. O forse sì. Almeno un operaio sa che sua moglie e i suoi figli sono a casa ad aspettarlo e che lì può starsene in pace. Ma loro, appena girano le spalle, la persona che amano se ne va con un altro. Non so. Lotti dice che si complicano la vita apposta perché non hanno niente da fare, perché hanno troppo tempo per pensare. Ma non è vero. Tutti quanti pensiamo. Io penso molto, anche se ho un mucchio di cose da fare. E mi sono sempre riservata un angolino della notte, come adesso, per pensare. Che siamo serve non vuol dire che ce ne stiamo nella stalla come cavalli, a masticare biada finché non ci portano fuori a lavorare. L'altro libro in cui troviamo Virginia Woolf è Io avevo paura di Virginia Woolf, un ragazzo alla Hogarth Press di Richard Kennedy, che è stato un narratore e disegnatore inglese scomparso 20 anni fa. Il libro è tradotto da Alba Bariffi ed è pubblicato da Guanda, 116 pagine, 14 euro. Il titolo qui è la parafrasi di un celebre dramma di Edward Albee, nel quale peraltro la grande scrittrice non c'entra, ed è la storia di un giovane di belle speranze ma senza particolari capacità che negli anni 20 del Novecento intervento viene assunto come tuttofare nella casa editrice dei coniugi Wolf, appunto Hogarth Press. Tra l'altro nell'altro libro si parla del disturbo e dell'ulteriore lavoro che questa attività portò sul peso delle povere domestiche di casa Wolf. In questo libro troviamo un ritratto dall'interno della casa editrice, scritto con tono molto ironico, e della vita professionale di Virginia Wolf e di suo marito. Ma ciò che rende veramente delizioso questo libro sono le illustrazioni, che trasmettono i tratti di un mondo finito, ma anche di un'avventura intellettuale che ha comunque segnato il Novecento e che viene qui fotografato con i suoi tic e le sue minuzie che ce la rendono più umana e più vicina. E ricordo che di Virginia Woolf è uscito da Guanda Tra un atto e l'altro, 166 pagine, 8 ore e 50, tradotto da Franco Cordelli e Francesca Wagner, che è l'ultimo romanzo della scrittrice, ritrovato appunto sulla sua scrivania con la lettera di addio subito dopo il suicidio. Minimum Fax pubblica Diario di una scrittrice, 476 pagine, 16 ore e 50, tradotto da Giuseppe De Carlo, che è una scelta degli appunti e delle carte lasciate dalla scrittrice, selezionate nel 1953 dal marito. E infine Newton Compton pubblica l'edizione integrale di tutti i racconti di Virginia Woolf, 256 pagine, 6 euro. Prima di salutarci ricordo che a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, è in corso la mostra dedicata ad Alexander Calder, il grande scultore americano. La mostra sarà aperta fino al 14 febbraio del 2010 e in questo caso c'è anche da visitare la mostra nella stessa sede, la mostra sulle foto di Ugo Mulas su Calder. In questa occasione vi segnalo il libro Scritte e conversazioni di Alexander Calder, è pubblicato da Abscondita, 118 pagine, 13 euro, curato da Riccardo Venturi. Calder, come ricorderete, è l'artista americano noto per i suoi mobile, le sculture in movimento, che secondo Sartre non significano niente, non rimandano ad altro che a loro stessi. Sono là, ecco tutto, sono degli assoluti, così scrisse il pensatore francese. Secondo il curatore Riccardo Venturi, Calder svincola la scultura dal piedistallo a cui un destino secolare la legava e l'appende in alto. Lasciar pendere una scultura, aggiunge il curatore, vuol dire non solo sfidare l'attrazione terrestre, ma anche la logica razionale, non solo abbandonarsi all'inerzia, ma anche aprirsi ai processi aleatori e transitori della forma, all'accidente o al colpo dei dadi. Ma sentiamo cosa diceva lo stesso Calder della sua opera. Sin dagli esordi del mio lavoro nell'arte astratta, e sebbene non fosse allora evidente, credevo che non vi fosse per me modello migliore con cui lavorare che l'universo. Sfere di diversi formati, densità, colori e volumi, che si librano nello spazio, circondate da intense nubi e maree, correnti d'aria, viscosità e fragranze, considerate nella loro estrema varietà e discordanza. E a questo punto... Il confettino. Rimaniamo alla storia, ma andiamo molti secoli indietro, ricadendo addirittura ai tempi di Cicerone, con il libro di Jack Mitchell, uno scrittore canadese, 63 a.C., Congiura a Roma, pubblicato da Feltrinelli, 224 pagine, 12 euro, tradotto da Maria Bastanzetti. Questo è un libro per i più grandicelli, è un libro avvincente, con complotti e congiure che fanno precipitare il giovane protagonista nel pieno di una semi-rivoluzione a Roma, quella di Catilina. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione e Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.